Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 su Radio Big World. Puntata piuttosto atipica per noi che solitamente registriamo o il martedì o il mercoledì pomeriggio. Stasera invece è giovedì sera e siamo praticamente in contemporanea con la chiusura della deadline di mercato. Un tentativo il nostro per dare un primo giudizio a caldo sugli scambi definitivi. Vediamo se ci riusciamo effettivamente. Ma siccome ci stiamo contemporaneamente avvicinando a grandissimi passi verso la partita delle stelle, due paroline su quelle che saranno le principali competizioni del weekend è giusto farle. Giusto due, principalmente per ricordare il bruttissimo infortunio ad uno dei protagonisti di questa stagione, Kristaps Porzingis. Rottura dei legamenti del ginocchio per lui, stagione in corso finita e perderà anche una presumibile gran parte della prossima. Considerando inoltre la sua fisicità e la mobilità che ne contraddistingue il suo gioco, speriamo che possa tornare forte come lo abbiamo visto quest'anno. Il Lettone salterà una partita delle stelle dove sarebbe stato sicuramente motivo di interesse, così come lo sarà quel Goran Dragic chiamato a sostituire l'ennesimo infortunio avvenuto nella settimana precedente. La partita delle stelle evidentemente porta sfiga, c'è poco da dire, speriamo di non vedere altre defezioni. E comunque, in materia di pessime vibrazioni, se così possiamo chiamarle, Kristaps Porzingis si accoda a Kevin Love, John Wall e DeMarcus Cousins tra gli infortunati del cosiddetto Team LeBron. Non esattamente un momento magico per King James, come avremo modo di vedere anche il seguito. Porzingis era atteso anche per lo Skills Challenge, competizione che onestamente mi entusiasma il giusto e che seguo pochissimo, per quanto solitamente farcita di giocatori di prima fascia, così come del resto è anche la gara del tiro da tre punti. Per la gara delle schiacciate invece assente anche il più atteso del lotto, diciamo forse, quell'Aaron Gordon degli Orlando Magic, che stava sostenendo una stagione di alto livello quest'anno e che purtroppo sarà infortunato. Tra l'altro, in questa competizione i quattro in gara appaiono veramente interessanti, considerando che il sostituto di Gordon sarà il rookie Donovan Mitchell, che sta sostenendo una stagione da potenziale migliore dell'otto in materia di esordienti, destinato anche in questo caso a sfidarsi con l'altro collega rookie Dennis Smith Jr. di Dallas. In competizione ci saranno anche Larry Nance Jr., ex Los Angeles Lakers perché appena passato qualche minuto fa ai Cleveland Cavaliers, e la stella Victor Oladipo di Indiana, che quest'anno parteciperà anche alla partita dei grandi, alla All-Stars Game, alla partita delle stelle. Personalmente i nomi sembrano giustificare l'attesa verso l'ultimo evento previsto il sabato notte, almeno per quest'anno. Speriamo si tratti di aspettative non deluse. Sulla carta sembrerebbe interessante anche l'ex Rookie Challenge, ormai divenuto sfida tra squadra USA contro squadra del resto del mondo. Se i giocatori chiamati non cammineranno in campo, salvo poi accelerare gli ultimi metri per anticipare la gara dalle schiacciate, forse questa sfida potrà apparire meglio di un cazzotto in un occhio, forse, chissà, vediamo come scenderanno in campo. Per iniziare ad introdurre l'argomento mercato dobbiamo ovviamente parlare di Cleveland e del suo periodo assolutamente pessimo che andava peggiorando man mano che ci si avvicinava alla trade deadline. Ad esempio, nella sfida contro Orlando chiudono 43-31 in vantaggio il primo quarto, dimostrando che la squadra offensivamente c'è, seppur orfana di Kevin Love, ma comunque riuscendo a prendere 31 punti in 12 minuti, che non sono assolutamente pochi. L'ultimo quarto però finisce a parti totalmente rovesciate, si conclude 24-9 per Orlando, dopo che Cleveland nel terzo ne aveva presi la bellezza di 41. Ne segnano 9 nell'ultimo quarto, cioè una cifra incredibile, almeno che non si pensi a quella che potremmo definire una cordellina interna o comunque una pressione manovrata da una parte del roster per operare quei cambi di cui tanto si è discusso nelle settimane precedenti a questa benedettissima chiusura di mercato. Anche nella partita a seguire in back to back serve un tiro sulla sirena di LeBron James per risolvere la sfida contro i Timberwolves, che comunque segnano la bellezza di 138 punti totali alla Quick and Loss Arena, e che non sono esattamente pochi. Cleveland vince comunque 140-138. Nell'incredibile quantità di ipotesi appetibili per i Cavaliers erano apparsi numerosi approcci con i Los Angeles Clippers, tra l'altro di un ritrovato da Lino Gallinari, e non potrebbe essere altrimenti visto la dipartita di Blake Griffin ed un maggiore spazio a disposizione per il nostro Danilo, sperando che il fisico regga. Ah, tra l'altro, due mini paroline per Blake Griffin a Detroit: la coppia che forma con Andre Drummond è apparsa subito efficacissima anche a livello di risultati e fa ben sperare in quel della Motor City. Dicevamo però, tentativi di Cleveland per la coppia DeAndre Jordan e Lou Williams. Se ne era parlato per mesi e contemporaneamente si parlava di tentativi di Cleveland con Charlotte per ottenere Kemba Walker. Malgrado tutto, ad una prima offerta dei Cavaliers entrambe le altre avevano risposto Nisma, fondamentalmente nello scambio quell'appetitosa prima scelta di Brooklyn, che per Cleveland poteva significare rifondazione e della quale non volevano ovviamente liberarsi, sembrava sia per Charlotte che per i Clippers determinante. La situazione in Ohio tra l'altro non era certo quella di poter gestire la cosa da un punto di vista dell'ultima parola, vista una conosciutissima condizione di spogliatoio in frantumi e risultati in continuo ed incredibile calo. Quindi, in cambio di pezzi pregiati eventuali, era necessario però togliersi di tasca i pezzi grossi massimi, che però non erano sufficientemente appetibili quanto questa benedettissima prima scelta di Brooklyn. Quindi i giorni precedenti alla deadline di mercato sono andati in questa direzione: la prima scelta dei Brooklyn Nets di Cleveland, cederla o non cederla, tenerla o non tenerla. LeBron James dal canto suo non ha assolutamente aiutato, pur dichiarando da inizio anno di non voler discutere del suo futuro, ha immediatamente ribadito la sua idea di non voler uscire dal contratto almeno fino a giugno, e ci sarebbe anche mancato altro, dico io. Una situazione paradossale che da una parte spronava i Cavs a migliorare un roster apparentemente pessimo, sperando di convincere quindi il re a restare puntando al titolo. Dall'altra però, con il dubbio che se LeBron l'estate prossima decidesse comunque di andare da altre parti, era necessario mantenere questa prospettiva futura, anche perché questa prima scelta di Brooklyn, al dato di fatto attuale, rappresentava la principale entrata effettiva rimasta in mano ai Cavs dal sacrificio di Kyrie Irving, considerando il pessimo rendimento di Isaiah Thomas e Jay Crowder, che tra l'altro in anticipo se ne sono andati via entrambi in occasione della finestra di mercato. In realtà c'è da ammettere comunque che il periodo di flessione è comune a tutte le altre grandi squadre della Lega, seppur il disorientamento dei Cavs sia unico nel suo genere, soprattutto dal punto di vista difensivo. La settimana infatti ha evidenziato flessioni per Golden State, sconfitta tra l'altro da una OKC stellare e per una Boston che rischia seriamente di perdere il primato di conference a vantaggio di Toronto. A proposito di Oklahoma City Thunders, la clamorosa esposizione del duo Westbrook-Paul George mi rende una delle squadre potenzialmente più interessanti per i mesi a venire, considerando lo status di autentica mina vagante nel momento in cui conta, cioè i playoffs. Certo, la perdita di Andrew Robertson non è stata provvidenziale a livello di tempistiche, ma la consacrazione definitiva di Steven Adams al centro ed il definitivo ruolo di terzo violino accolto da Carmelo Anthony fanno ben sperare a livello di equilibri. Anche per loro il mercato appariva potenzialmente decisivo, con l'obbligo di innestare un sostituto al miglior difensore della squadra ormai perduto per infortunio, magari non di pari valore nella metà campo difensiva, ma quantomeno a livello di starter garantito. Comunque, cerchiamo di andare con ordine iniziando a parlare delle ultimissime notizie di mercato. Intanto, i Clippers, contrariamente alle copiose voci degli ultimi mesi, hanno blindato Lou Williams dopo avere praticamente in contemporanea ceduto Blake Griffin a Detroit, come già sappiamo, ottenendo in cambio sostanzialmente soltanto Tobias Harris, perché Boban Marjanovic sembra destinato a liberare spazio salariale in estate ed Avery Bradley era stato dato per partente nella finestra appena conclusasi da molti analisti. Un giocatore invece che era finito nel dimenticatoio newyorkese, cioè Willie Enar Gomez, è andato a Charlotte nel frattempo. Scambio piuttosto scuro sia per il giocatore stesso, chiuso abbastanza a livello di lunghi nel North Carolina, che per i New York Knicks, che sostanzialmente hanno preso due seconde scelte in cambio, praticamente in contemporanea con la notizia della perdita di Porzingis per 10 o 12 mesi. Greg Monroe è invece finito a rinforzare Boston, uscito dal contratto con Phoenix in cui era rimasto incastrato durante l'affare tra Suns e Bucks per Eric Bledsoe. Una pedina in più in una squadra che comunque punta in alto verso la finale, quindi a mio avviso uno scambio piuttosto positivo. I Bucks invece si sono presi Tyler Zeller per rinforzare un po' la rotazione dalla panchina, mandando a Brooklyn poco o niente. Nikola Mirotic invece, ex Bulls, è passato a New Orleans, sostanzialmente sostituendo l'infortunato DMC, e si tratta di una discreta soluzione per i Pelicans, quantomeno per tamponare un degenero che poteva generare un'accelerazione nell'idea di cambiare casacca da parte di Anthony Davis, anche se bisogna vedere cosa succederà con Cousins al momento dell'eventuale rifirma o meno del contratto in scadenza. Comunque, assolutamente scoppiettante quello che è accaduto oggi. Lo ripeto, stiamo registrando a deadline apparentemente appena conclusa, anzi esattamente sono le 21:30 di giovedì sera. Abbiamo parlato di Cleveland introducendo il mercato, per questo non possiamo rimanere stupiti rispetto a quello che appare nei nostri schermi qui davanti. Squadra sostanzialmente distrutta e rifondata, praticamente annullando tutto quello che era stato fatto nell'apparentemente scoppiettante mercato estivo. Allora, in sostanza, Derrick Rose e Jay Crowder fanno i bagagli e vanno nello Utah a Salt Lake City in uno scambio a tre che porta Cleveland, Rodney Hood e George Hill dei Sacramento Kings. Sì, perché i Kings sono la terza squadra coinvolta nella trade e si portano a casa Imam Shumpert e Joe Johnson. Considerando che Rose è dato per tagliato sicuro dai Jazz, si può affermare che i Cavs ci guadagnano e non poco, considerando Hill come potenziale starter immediato e Rodney Hood come ottima pedina da utilizzare. E soprattutto considerando che sono riusciti a liberarsi sia di Imam Shumpert che di un Jay Crowder che era dato come coalizzato con il piccolo Isaiah Thomas come causa dei disordini in spogliatoio. I due ex compagni ai Celtics quindi si separano, ma la notizia clamorosa è che a poche settimane da un pessimo esordio, Thomas è costretto a fare i bagagli ancora una volta. Lo rivedremo in giallo-viola, perché i Cavs hanno chiuso uno scambio a dir poco incredibile con i Los Angeles Lakers. Isaiah approda Los Angeles con Channing Frye e la prima scelta dei Cavs del prossimo draft. In cambio arrivano in Ohio Larry Nance Jr. e Jordan Clarkson. Onestamente, considerando la situazione nello spogliatoio di Tyronn Lue, scambio assolutamente positivo a mio avviso, perché Clarkson è giocatore potenzialmente utile e Larry Nance è pedina interessante, secondo me ben più di Channing Frye. La curiosità tattica è tutta rispetto ai Lakers, ma non avevano Lonzo Ball come point guard del futuro? E poi, adesso dovrà convivere seriamente con Isaiah Thomas oppure uno dei due sarà destinato a far le valigie a fine stagione? Oltretutto, considerati Lakers come probabile approdo potenziale di LeBron James in estate, quanto conviene mettersi in squadra colui che nelle ultime settimane a Cleveland è stato descritto come il suo nemico giurato? Evidentemente si butteranno nel caso su qualche free agent di alto livello che non sia LeBron dovessero tenersi in casa il playmakerino originario di Seattle. Ma le sorprese a Cleveland non finiscono qui. Dwayne Wade lascia clamorosamente LeBron James e torna a Miami in cambio di una seconda scelta. Il senso di questa operazione mi appare al momento misterioso, dico la verità, e soprattutto completa l'annullamento di tutte le mosse effettuate dalla dirigenza Cavaliers nel mercato estivo, a partire dallo scambio per il quale Kyrie Irving è finito a Boston sostanzialmente in cambio di questa famosissima prima scelta dei Nets, che è di fatto tutto quello che gli rimane in mano in questo momento. Personalmente, un rifondare il roster in maniera così clamorosa lo vedo come una cosa senza senso, soprattutto se consideriamo le difficoltà che potrà incontrare una squadra già scricchiolante nel formare gli equilibri in vista di una possibile post-season da protagonisti, almeno loro così si augurano. Sarà veramente curioso osservare l'evoluzione dei Cavs nelle prossime settimane, considerando che al momento appare che il centro titolare resterà Tristan Thompson e comunque Kevin Love al momento è infortunato e ne avrà ancora per un po' di tempo, quindi chissà come Cleveland riprenderà a partire da domenica sera, dove è previsto lo scontro proprio contro i Boston Celtics. Guardando anche agli altri, altro giocatore dichiaratamente conteso era Emmanuel Mudiay, che è finito per accasarsi a New York Knicks in una trade che ha coinvolto Denver Nuggets e Dallas Mavericks. A Dallas è finito McDermott, mentre a Denver Devin Harris. Altro scambio avvenuto tra Phoenix Suns e Orlando Magic. Si sposta in Arizona Elfrid Payton ed arriva in Florida una seconda scelta futura. Payton era apparso deludente rispetto alle aspettative con cui era entrato nella Lega, è verissimo, ma i Magic in questo modo lo hanno realmente svenduto senza un'apparente ragione al momento. E invece, riguardo a quei pezzi da 90 dati per partenti per settimane, dove sono andati a finire? Niente da fare per DeAndre Jordan, che evidentemente resterà clamorosamente ai Clippers. Niente da fare neanche per Kemba Walker, che alla fine Cleveland non è riuscita a portarsi a casa. Niente da fare neanche per Marco Bellinelli, dato per partente certo fino all'ultimo minuto, ma che di fatto al momento rimane ad Atlanta. Nessuna notizia rilevante anche su Avery Bradley, che evidentemente resta in quel dei Clippers anche lui. E lo stesso vale per Marc Gasol, che sicuramente a questo punto resterà a Memphis. OKC non si muove in nessun lado, anche se si dice interessata a Joe Johnson in caso di probabile taglio da parte dei Sacramento Kings. Ma ci sono anche Boston e Golden State alla finestra per il veterano. Gli stessi Warriors sembrano interessati anche a Channing Frye in caso di taglio immediato anche per lui. E lo stesso vale per Derrick Rose, che a quanto si legge sarà tagliato sicuramente e interessa sicuramente ai Minnesota Timberwolves. Nessuna notizia al momento, in cui chiudiamo anche in relazione a Tony Allen ed a Marcus Smart, entrambi accostati a Oklahoma City, ma per i quali evidentemente non si è riusciti a costruire trade convincenti. Comunque, per onestà intellettuale, noi chiudiamo e ci sono ancora qualche decina di minuti, almeno così si legge, per concludere le trattative in sospeso. Chissà che le cose non cambino ulteriormente. E comunque, allo stesso modo, alla chiusura del mercato si apre la questione di eventuali svincoli consenzienti, per i quali alcuni dei protagonisti degli scambi appena riportati o meno potrebbero accasarsi come free agent da altre parti. Chissà che non sia proprio il caso di un Marco Bellinelli, che magari riesce a farsi svincolare e andare forse a Philadelphia, visto che appariva la squadra più interessata a lui. Dall'altra parte, lo stesso può valere per Avery Bradley, che era molto molto molto voluto dai San Antonio Spurs. Si dice che avessero offerto in cambio Danny Green, ma la cosa non si è fatta, o comunque non è finita. Chissà che non possa accadere in qualsiasi altra maniera rispetto a come stiamo chiudendo in questo momento. Noi non possiamo andare avanti oltre, quindi eventualmente aggiorneremo il tutto la prossima settimana. Al solito vi ricordo che comunque potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, che si chiama NBA Week, dove abbiamo iniziato a pubblicare delle note di approfondimento testuale, soprattutto su storie del passato della Lega. Per ascoltarci comunque, gli appuntamenti settimanali restano i seguenti: tutti i venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto anche in questa puntata piuttosto complicata ed approssimata, o quantomeno improvvisata. Ci risentiamo la settimana prossima. We'll be right back.